Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono le 18. Tra poco ceno e vado a dormire. Poi stanotte sveglia alle 23:30. A mezzanotte sono fuori. Presentazione in aeroporto a mezzanotte 45. Il decollo è previsto all'1:45. Gli orari sono abbastanza pesanti, ma io non vedo l'ora. Mi piace. Stanotte poi il mio volo sarà un volo ferry, il che significa aereo vuoto. Io mi chiamo Manuel De Benedetti, ho 47 anni, vivo tra Bristol in Inghilterra e Roma in Italia. Sono ingegnere e faccio il pilota di linea. È che ci sono delle persone che vivono di notte. Sono poche, ovviamente, ma ci sono. Nel senso che la maggior parte delle persone durante il giorno lavora e la notte solitamente ha una possibilità, più o meno, no? Che è dormire. Alcuni però, se non sono particolarmente soddisfatti di quello che il giorno gli riserva, allora usano la notte, magari un pezzo della notte, magari l'inizio, o magari la fine, per fare quello che vorrebbero fare, o quello che gli piacerebbe fare, o che gli piace fare, o magari anche quello che sperano che possa diventare la loro vita, anche di giorno, magari tra qualche anno. Ecco, la notte è un po' come se fosse l'altra vita possibile. Se quando scende il sole trovate il tempo per fare quello che non fate di giorno, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it, c'è anche un profilo Facebook, è sempre quello lì, è Matteo Caccia, io sono qui. È lì che hanno scritto quelli che già mi hanno raccontato una parte della loro vita notturna, di quella che appunto prima definivo l'altra vita possibile. Lori, io praticamente, mi scrive, di notte mi sono ridipinta casa, cioè il salone, però scrive è un salone grande. E ho scoperto perché gli imbianchini si fanno pagare caro. Io non ho capito perché, però magari se me lo dici Lori meglio. Francesco, la notte quando capita alzo il binocolo di qualche grado e controllo che la luna sia sempre lì. Francesco il guardiano. Ah, lui è Francesco di Livorno, che sta al, si definisce il guardiano del faro. Poi avevamo capito che non era, era un faro commerciale più o meno. Una non un faro, una stazione di, dai, come si chiama? Vabbè, dopo mi verrà. Sì, una torre, esatto, una torre di controllo commerciale. Luciano invece dice: io ho lavorato di notte per 25 anni, facevo il pianista di piano bar. Mi facevano quasi pena quelli che vedevo alla fermata dell'autobus che andavano a lavorare mentre io rientravo a casa. Da anni invece faccio il programmatore di computer, mi alzo alle 7 per avere un'oretta la mattina da passare al pianoforte, in cuffia perché è un piano digitale. Visto che poi lavoro tutto il giorno e non posso fare altrimenti, non mi faccio pena e sono felice. 349-238-6666. L'idea è proprio quella lì, che per lo più, mi ricordo c'era stata una ricerca, beh, a parte che oggi Margherita mi faceva vedere la ricerca di Forbes che dice che i lavori, le persone che fanno, le persone che sono più felici per il loro lavoro, adesso non mi ricordo bene i primi tre posti, ma al quarto ci stavano gli autori, non si capisce di cosa, ma il primo è i preti, ma il prete vale come lavoro? Vabbè, tant'è, comunque questa dopo magari cerchiamo, è vero, c'era il dove la cerchi Margherita per piacere, la diciamo completa. Comunque mi ricordo un'altra ricerca che sosteneva che qualcosa come il 92% delle persone fa un lavoro che non gli piace, comunque fa un lavoro che considera semplicemente un lavoro e non qualcosa che ha a che fare con la soddisfazione personale, e quindi immagino che di questo 92% ci sia una gran parte che ha ovviamente dei gusti, ha delle cose che preferisce fare e magari le fa di notte perché di giorno non ha tempo. Se siete tra quelli, il numero è sempre quello lì, è 349-238-6666. C'è anche una mail, ogni tanto arrivano dei racconti a una mail sbagliata, allora ve lo ripeto, la mail è voi siete qui @radio24.it. vi ricordo, il racconto deve essere di una pagina, non di più, e deve essere di un episodio realmente accaduto a voi nella vostra vita, e poi ci mandate anche una foto. Voi siete qui @radio24.it. la puntata di oggi è una puntata particolarmente notturna ed è per questo che andiamo in onda alle 16. Non era male questa, Paolino? Infatti io mi aspettavo che ti partisse una base notturna, così, e invece niente. È una puntata abbastanza notturna, perché la persona che ci ha scritto fa il pilota d'aereo e si chiama Manuel. Sono le 18, tra poco ceno, vado a dormire, stanotte sveglia alle 11:30, a mezzanotte sono fuori, in aeroporto a mezzanotte 45. Il decollo è previsto alle 2:15. Sono orari pesanti, lo so, ma io non vedo l'ora. A me piace veramente, perché stanotte il mio volo sarà un volo ferry, che vuol dire aereo vuoto. Non ci sono passeggeri che ritardano, signore che si lamentano, niente bagagli smarriti, niente bambini che vomitano. E nemmeno le assistenti di volo, che pensano al trucco e alla piega dei capelli. Faccio questo lavoro non da moltissimo tempo, da circa 5 anni. La cosa che mi attrae di più è il fatto che ti porta a stare fuori dall'ufficio. Quindi, avendo fatto in precedenza altri lavori, è una bella differenza. Si vedono ogni giorno posti nuovi, ogni giorno panorami nuovi. Di notte in volo l'aereo entra in sintonia con il buio. Sembra addirittura che diventi più silenzioso. Adoro il buio. Scorre via come un velluto. Con la cabina passeggeri deserta e le luci spente, immagino che dall'esterno si veda solo la flebile luce rossa degli strumenti, riflessa sui nostri volti. Nascosti dal favore delle tenebre, il nostro cargo ombra sfila veloce verso una destinazione fantasma. Io passo ore a scrutare le città e i paesini che sorvolo, e immagino la gente che dorme e riempie la notte dei propri sogni di bambino, accarezzati da una dolce musica di Carillon. Di notte vigono leggi diverse, i tempi si rilassano, nessuno ha più fretta. E io ho l'impressione che la notte mi parli. Non ha aspettative, non ha pretese. Attende pazientemente che io pensi con calma che cosa dirle. E se non ho nulla da dire, non è un problema. Non chiede risposte geniali la notte. In giro per gli aeroporti ci sono pochi animali notturni. Voli cargo, voli postali. Intorno agli aerei gira gente strana. Niente divise, poche formalità. Tante sigarette e caffè che scorre a fiumi. Senza la mia giacca coi galloni, senza le mostrine e le strisce dorate, mi sento molto meglio. Tra quei piloti navigati l'esperienza si riconosce dal volto, i loro giubbotti di pelli consumati, le macchie d'olio dei vecchi motori. Sul piazzale, nell'oscurità, vedo modelli di aerei che credevo fossero stati radiati da tempo. Pur improponibili per il trasporto passeggeri di oggigiorno, sono muli da trasporto infaticabili. Portano evidenti segni del tempo, ma fanno ancora il loro dovere senza lamentarsi. Sono aeroplani con un carattere. Hanno un carattere e una personalità propri, quindi non li può pilotare chiunque. E poi c'è la parte più bella: i racconti. I racconti delle gesta aeree. In attesa che l'aereo venga caricato, riuniti attorno alla caffettiera allestita su un fornello da campo, oppure negli aeroporti, in quelli più sperduti, attorno a un fuoco. Vengono descritti con enfasi romanzesca gli appontaggi sulle portaerei in mezzo alla tempesta, i trasporti in mezzo al deserto sui quali era meglio non fare troppe domande, i soccorsi fra le montagne o gli atterraggi senza carburante sul pack polare. Episodi leggendari e terrificanti che di notte hanno un sapore completamente diverso. Io ne resto ogni volta stregato. Una volta si è liberato un piccolo gattino nero. Era spaventato e stava fermo in mezzo al piazzale. Allora c'erano aeroplani enormi che si fermano e non potevano proseguire, a dire la verità, più per il rischio che l'animale fosse ingestito dai motori. C'è stato una specie di ingorgo in mezzo all'aeroporto, finché a un certo punto non è arrivata due macchine della sicurezza con il lampeggiante che inseguivano questo gattino. Ecco perché, ora che sono le 18 e sto per addormentarmi, io non vedo l'ora di tuffarmici nella notte che sta per arrivare. Quando arriva l'alba quasi mi dispiace, perché con la luce questi racconti non possono più essere narrati, perdono la loro efficacia. Ritorna la fretta, la razionalità, il mistero del buio scompare e la magia svanisce. Ma io, per fortuna, alle 9 di domattina sarò nuovamente sotto le coperte e quando arriverà la notte io sarò di nuovo pronto per lei. You're the night liar, a little girl lost in the woods. You're a folktale, the unexplainable. You're the night liar, and your ass shines like a melon of a moon. Eyes shine too, even in the afternoon. Ho letto la storia di Manuel una sera della scorsa settimana. Non erano le 18, era molto più tardi. Avevo appena mangiato una di quelle cose brutte che mia mamma non sa che mangio, perché altrimenti si arrabbierebbe molto. Tipo una zuppa già pronta, di quelle da mettere nel microonde per 5 minuti e poi condire con un po' d'olio, del parmigiano e del pepe. tu te la mangi da solo davanti alla televisione e ti senti veramente un prototipo di target del marketing di quelle aziende lì, quelle che producono quelle zuppe da scaldare in microonde e che pensavano esattamente a te, in una sera come quella, a casa da solo, a mangiare quella sbobba. Ma torniamo alla storia di Manuel, perché l'ho letta proprio dopo aver mangiato quella roba. Ho lavato quei due piatti in croce, mi sono messo sul divano e saranno state le 10. E tra tutte le altre storie che mi arrivano mi è capitata questa tra le mani. Era ancora presto, però leggendola ho deciso che dovevo uscire di casa. Girare una città di notte senza per forza dover andare in un posto preciso è una cosa che non capita spesso. A meno che tu non abbia un cane da far passeggiare, direi che non capita quasi mai. L'altra sera invece io ho proprio preso la Vespa e mi sono messo a girare per Milano. Era un giorno infrasettimanale, erano le 11 e faceva freddo. La città sembrava deserta, ma non lo era, ovviamente. La città non è mai veramente deserta. Passo davanti a Parco Solari, c'è un signore anziano con un cane ancora più anziano. Sembrano fratelli. Si aspettano a vicenda, prima due passi avanti uno e poi due passi avanti l'altro. Davanti all'edicola di via Melzide Ril è sempre aperta, 24 ore al giorno. Mi domando chi compra i giornali di notte, ma soprattutto perché. Arrivo in piazza Napoli e prendo un kebab da due ragazzi turchi che quasi mi viene voglia di andare a Istanbul, anche se già so che la cipolla la rivivrò fino a domani mattina. Arrivo a Porta Genova, c'è una ragazza che sta camminando sul marciapiede. È alta ed elegante. Ha un'enorme testa di capelli ricci. Forse torna a casa, forse va dal suo ragazzo. Indossa un cappotto rosso. Mi viene voglia di girarmi per seguirla con lo sguardo. Spero si volti a guardarmi, ma non lo fa. Chissà chi è lei. Chissà chi è lui. Passo davanti al Cape Town, un locale sulla darsena del Naviglio. C'è così tanta gente di fuori che sembra ci sia un concerto. Se siete a Milano e volete farvi un bel giro nella nuova classe creativa, questo è il posto giusto. Età media 35 anni, fotografi, musicisti, designer, pubblicitari, filmmaker. Insomma, per gli amanti del genere. Proseguo, faccio le colonne di San Lorenzo, via Torino, piazza Duomo con i piccioni, qualche turista e peruviani. Via Manzoni, il teatro alla Scala, parco Venezia e poi corso Buenos Aires, dove sembra sempre carnevale. Poi giro verso sud e faccio tutta la circonvallazione esterna. Macchine a passo Duomo, qualche signora filippina che aspetta la 90. Qualche studente che torna a casa, in quelle case da studenti che di casa hanno davvero poco. In Viale Toscana c'è un'altra ragazza. Ha degli stivali bianchi che le arrivano alla coscia, un top nero e un rossetto rossissimo. Praticamente in mutande. Non sembra avere freddo però, sembra avere solo un po' paura, anche se la nasconde bene. E poi verso casa, in via Ripamonti, passo davanti a un posto in cui andavo spesso. È la casa 139. Era un locale dove si faceva musica bella, non sempre, ma spesso sì. Ci andavo ogni tanto, ora ho smesso. L'hanno chiuso e non lo riaprono più. Ci faranno degli appartamenti. Parcheggio la Vespa, sono le 2 del mattino. E penso che le nostre giornate sono cadenzate da orari sempre uguali. E quindi siamo abituati a vivere più o meno le solite ore allo stesso modo. Poi invece basta svegliarsi 2 ore prima la mattina oppure tornare a casa un po' più tardi la sera per vedere il mondo in un modo diverso da quello cui siamo abituati. Come se noi considerassimo lo spazio come l'unica dimensione davvero interessante da esplorare. E quindi durante le vacanze bisogna spostarsi per andare al mare, in montagna, in una città sconosciuta, insomma, muoversi da dove si sta solitamente. Forse invece no. Forse invece basterebbe provare ad esplorare anche il tempo come se fosse un territorio nuovo. Ad esempio, se per le 2 settimane di vacanza che ci facciamo ogni anno, invece che andare al mare, si rimanesse a casa propria, ma vivendo orari diversi. Dormendo il giorno e uscendo la notte, pranzando all'alba, svegliandosi nel pomeriggio, forse non sarebbe meno interessante di 15 giorni a Diano Marina. In fondo, tutte quelle cose che di solito hanno un orario prestabilito, no? Quando le facciamo in un'altra parte della giornata, sembrano più belle. Tipo mangiare una cosa alle 3 del mattino, le dà un sapore che non ha all'ora di pranzo. Ma anche fare una corsa alle 11 di sera, oppure fare l'amore alle 3 del pomeriggio. Dà molto più gusto che non farlo di notte, quando sei a letto e sai che capita con più facilità. Non lo sai, forse è un'idea, o forse solo che stasera mi andava di uscire un po'. Rientro in casa, apro la porta e accendo la luce. Sul divano c'è un cappotto rosso, è appoggiato su un cuscino. Mi sfilo il giubbotto e ce l'appoggio sopra. La casa è ancora calda, improvvisamente mi sento stanco. Vado in bagno, mi lavo i denti, mi sfilo i pantaloni e la camicia. Spengo tutto, un filo di luce spunta dalla porta della camera da letto. La apro piano per non fare rumore. Lei mi ha lasciato accesa l'abat-jour, quella appoggiata per terra, quella che fa una luce bassa e delicata. Dal piumone spuntano delle ciocche di capelli ricci. Spengo la luce e mi infilo nel letto di fianco a lei. La guardo sperando che lei apra gli occhi e si giri a guardarmi. E quando lo fa, me ne accorgo subito, anche se è buio. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? Io vivo di notte, e mi scrive, non so chi perché non si firma, vivo al contrario, lavoro di notte e di giorno accudisco mia figlia. E ancora, mi sveglio alle 4 del mattino e comincio gli allenamenti per la maratona. Meraviglia il giorno, che meraviglia, il giorno che si sveglia. Poi ancora, di no, Nicola da Verona, sei un genio. Di notte giro in auto per addormentare mia figlia. E io mi immagino quest'uomo che gira costantemente per la sua per Verona, con questa bambina nel, come si chiama, nel passeggino lì, quello nel seggiolino per l'automobile, che cerca di farla addormentare, poi controlla, poi sicuramente appena ti fermi lei si sveglia. Ma che ne so io, che di figli non ne ho, non so se ne ha di figli, però sicuramente ha esperienze che hanno a che fare con la notte, visto che ci ha scritto un racconto ed è Manuel. Pronto Manuel? Ciao, buonasera. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Senti, dove ti trovi adesso Manuel? Adesso sono appena arrivato a casa, sono a Roma. Che turno hai fatto oggi? Stamattina sveglia alle 4, sono andato a Palermo, da Fiumicino a Palermo, poi da Palermo a Fiumicino, Fiumicino Nizza, Nizza Fiumicino. E senti, senza passare dal via, tipo, no, nel senso che questo è un turno normale, cioè sono 4 voli. Abbastanza normale, sì, quello di oggi è stato un volo diurno, che a dire verità sono quelli più frequenti, è un po' raro purtroppo che mi capitino turni notturni come quello che ti ho descritto nella lettera. Che era un volo ferry, che ferry vuol dire semplicemente di spostamento? Esatto, sì, noi dovevamo semplicemente spostare l'aereo. Da dove a dove in quel caso, ti ricordi? Qualche mese fa, credo che fosse Roma-Bologna. Senti, Manuel, tu dicevi che hai 46 anni, giusto? Sì. E fai questo lavoro da 5. Sì. Questo vuol dire che tu prima hai fatto un altro lavoro, sei un ingegnere, giusto? Esatto, sì. E cosa facevi? Lavoravo per Airbus, per il costruttore. Scusami Manuel, sai cosa mi fa ridere? Che c'hai la voce che si sente quando il comandante dà gli annunci, guardate fuori quello che vedete. hai esattamente la stessa voce. Ma tu sei un comandante o un pilota? Primo ufficiale. Beh, cosa vuol dire? A bordo c'è il comandante, che sta di solito a sinistra, e il primo ufficiale che è a destra. È quello che decide è il comandante. Il responsabile del volo, in ultimo, è il comandante, sì. Ma il tu li fai? Diciamo la seconda autorità a bordo. Ma tu li fai quei messaggi lì, tipo... Ogni tanto, sì, sì. Tipo stiamo atterrando, tipo oggi hai fatto, stiamo atterrando, abbiamo cominciato la discesa per Nizza. Sì, per esempio il tempo è sereno, la temperatura al suolo è di 15 gradi, e prevediamo di atterrare a destinazione tra 20 minuti, le solite balle, insomma, almeno un paio di lingue. Senti, tu com'è che a 41 anni si decide di diventare pilota? Il mio è stato un percorso un po' anomalo, perché semplicemente era una cosa che a un certo punto ho capito di voler fare, ho avuto la fortuna di poterlo fare, però ho dovuto ovviamente anche rinunciare a qualcosa. Non è una scelta che puoi fare seguendo la busta paga, né seguendo le aspettative di carriera. È stato un punto nel quale io ho deciso, okay, di cambiare. Tra virgolette, vendo tutto e faccio un'altra cosa, mi rimetto in discussione. Quindi, scusa, l'iter quanto dura per fare il brevetto poi? Cioè, da quando hai deciso, ok, ci provo, a quando sei salito su un aereo e l'hai pilotato? Quanto tempo è passato? Io in realtà volavo già per diletto, quindi per passione, da molti molti anni, okay. Dal 1983 addirittura. Quindi avevi il brevetto, come si chiama quello? Inizialmente il livello basico è quello, si chiama licenza di pilota privato, e ti permette di andare in giro da solo con degli amici, ma non per lavoro. Poi sì. Il secondo step intermedio è la licenza di pilota commerciale, e il terzo ed ultimo che abbiamo noi che facciamo questo lavoro è la licenza licenza di pilota di linea. Ho capito. Senti, invece un'altra cosa, perché io ti farei mille domande adesso, però purtroppo non c'è tempo. Ma quando l'aereo è in crociera e voi non dovete né atterrare né decollare, che immagino sia il momento più complicato, ma cosa fate in quella cabina? In realtà il lavoro c'è ed è parecchio, quindi non è che si sta lì a discorrere Cioè sono cose però più compilative che riguardano la sicurezza, oppure c'è... Ci sono tutta una serie di procedure, preparare l'avvicinamento, preparare il tipo di atterraggio che uno vuol fare e mantenersi in contatto rato con gli aeroporti. Senti, veramente, perché sono già fuori, ma un'altra domanda la voglio fare. Il momento più brutto, il peggior momento, non dico che in cui hai avuto paura, però in cui tipo vento a 50 nodi in coda... 50 nodi in coda, riattacchi e atterri dalla parte opposta. Ok, quindi... riattacchi vuol dire che non atterri proprio, in sostanza. No, decisamente okay. No. Va bene. Ci sono stati momenti di questo genere, ma fanno parte del lavoro. Paura, devo essere sincero, mai. Fino adesso mai. Manuel, senti, ti devo salutare, ti ringrazio moltissimo per il racconto e la telefonata. Ci risentiamo. Posso fare una precisazione velocissima? Sì, al volo. La maggior parte dei voli li faccio con gli assistenti di volo, che sono delle persone estremamente preparate e capaci, che sono un supporto indispensabile, quindi hanno tutta la mia stima. Quello che è stato venuto fuori poi dalla lettera, sì, della quale è stata letta una parte, è il fatto che hanno le ragazze, essendo delle ragazze molto avvenenti, hanno un effetto particolare sugli uomini, però diciamo è un disclaimer. Fa molto piacere averle a bordo, altrimenti mi metto nei problemi. No, non sia mai. Manuel, grazie mille, buona giornata. Ciao. Voi siete qui. E non poteva che essere, chiaramente è stata scattata in aereo, nella fattispecie nella cabina di pilotaggio, la foto che mi ha mandato Manuel. Si vede pochissimo della strumentazione, purtroppo, si vede solo una mappa, proprio una carta cartacea, una cartina dei cieli, di un aeroporto, attaccata alla cloche. In primo piano la sua faccia molto sorridente, illuminata da una luce che chiaramente si ha solo probabilmente a 10.000 metri d'altezza. Tutto intorno, fuori dall'aereo, nuvole. 349-238-6666, il lunedì notte servizio 118 ambulanza e poi di nuovo al lavoro. Ciao Matteo, ti sto ascoltando mentre tento di dormire un pochino dopo essere stato in piedi per 27 ore. Faccio il portiere d'albergo e stanotte sono di nuovo di turno, dalle 11 alle 7 del mattino. Alla fine diventi un vampiro. Antonello da Roma, ciao Antonello. Poi ringrazio Margherita che mi ha portato i 10 lavori, visto che si parlava di lavori e di felicità professionale, una roba che non facciamo mai, e invece diamo una notizia di oggi, sta notizia? Tipo, no? No, è di 40 anni fa, probabilmente, ma chi se ne frega, noi non facciamo... Attualità stretta, i 10 lavori più felici: al primo posto il prete, al secondo posto i pompieri, al terzo posto fisioterapisti, al quarto posto gli autori, di cui si dice per molti la paga è ridicola, addirittura non esiste, ma l'autonomia di poter scrivere con idee che si hanno nella propria testa apparentemente porta alla felicità. Poi educatori speciali al quinto posto, al sesto posto insegnanti, al settimo posto gli artisti, scultori e pittori soprattutto, all'ottavo posto psicologi, al nono posto financial service, sì, insomma robe agenti finanziari, e al decimo posto ingegneri, perché si dice di fatto giocano da grandi con gli stessi giochi con cui giocavano da bambini, grosso modo. Come mi faccia notare giustamente Tiziano, o cose per cui fai molto bene agli altri o cose per cui hai tanti soldi in tasca, più o meno. Beh, la fonte è Forbes, giusto? La Forbes è il giornale che lo riporta, la ricerca è General Social Service, Università di Chicago, quindi come dire, non è una menata, cioè non è una stupidaggine. 349-238-6666, è arrivato, ce n'era un altro. Sono un poliziotto, eccolo qua. Una notte ogni 4 giorni faccio la notte da ormai 3 anni. Dopo l'emozione iniziale inizia a diventare pesante, ma alle 4 di mattina è sempre bello vedere la città che dorme. Enrico, 26 anni, di Milano. Ci sono degli incontri che si fanno solo di notte. Anzi no, si fanno solo di notte e nei romanzi, di solito, o nei film tratti da romanzi. È il caso dello Spaccone, qualcuno di voi avrà visto il film, ma lo Spaccone è innanzitutto un romanzo di Walter Tevis, in cui si racconta, avete presente quel quadro di Hopper, quel pittore americano che fa le cose, che parla prende squarci di America e li dipinge. Ce n'è uno famosissimo che in cui si vede un diner, un tipico bar americano, di notte si vede un cameriere dietro il bancone e un uomo e una donna seduti che non si guardano ma bevono qualcosa, fumano qualcosa. Ecco, esatto, se qualcuno si ricorda, credo si chiami Night Hawk, una roba del genere. Se qualcuno se lo ricorda e ce l'ha, lo può caricare sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui. Ecco, questo pezzo tratto dallo spaccone sembra raccontare esattamente quel quadro lì. Uno dei tavoli era occupato da una sola persona, una ragazza bassa di statura, non molto graziosa. Beveva caffè. Dopo un attimo di esitazione, Eddie le si sedette di fronte. Lei fissava il caffè e non alzò neppure gli occhi. Eddie cercò di attirare la sua attenzione. Dopo qualche istante tornò a guardare la ragazza. Accanto al gomito notò un posacenere, pieno di mozziconi. In quel momento lei estrasse dalla tasca del soprabito un astuccio d'argento, prese una sigaretta e se la mise tra le labbra. A Eddie non sfuggì la disinvoltura del gesto. In modo altrettanto naturale, la ragazza si accese la sigaretta. Eddie pensò che quello fosse il momento favorevole. Sorrise e chiese: «È molto che aspetta il pullman?» «Sì», rispose lei, con voce stanca, un tono che non invitava la conversazione, e tornò al suo caffè. Aveva i capelli scuri, tagliati corti, lisci. Sarebbe potuta essere carina, ma non lo era. Le sue labbra erano troppo esangui, nonostante il rossetto, e non abbastanza carnose. C'era qualcosa di maschile nella linea della fronte, non si notava la curva del seno e la struttura ossea del viso era troppo marcata. Ma forse era solo colpa della luce. Non trovando altro da dire, Eddie attese in silenzio l'arrivo della cameriera. Poi, obbedendo a un impulso improvviso, disse: «Un momento!» Si rivolse quindi alla ragazza. «Le va un'altra tazza di caffè?» Glielo chiese nel tono di voce più naturale e amichevole che gli riuscì. Lei alzò gli occhi di nuovo e lui sorrise, ricorrendo all'arma che non l'aveva mai tradito. Era il sorriso che, insieme alla sua faccia onesta, gli serviva per gabbare i dilettanti nelle sale da biliardo. Lei esitò, poi alzò le spalle. «Va bene», rispose. E quando la cameriera si fu allontanata, aggiunse: «Grazie». Lo scrutò con un'espressione interrogativa. Niente in quello sguardo indicava il desiderio di flirtare o, al contrario, di mantenere la distanza. Niente. Sembrava piuttosto curiosa di scoprire che tipo di uomo potesse cercare di abbordarla in una stazione di pullman di notte. Lui ne fu divertito. Trasformò il suo sorriso magnetico in un comune sorriso e chiese: «A che ora parte il pullman?» «Quale pullman?» disse lei. «Il suo». «Oh!» Un timido sorrisetto le sfiorò le labbra, per poi sparire subito. «Alle 6». Lui guardò l'orologio e disse: «Beh, ha quasi un'ora». Lei annuì e vuotò la tazza di caffè. «Da quanto tempo aspetta?» le domandò. La ragazza sollevò di nuovo gli occhi su di lui. A Eddie piacque quel gesto. Lo aveva visto fare a un'attrice in un film nello stesso modo, e anche quella volta gli era piaciuto. «Dalle 4», disse lei. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Per la serie Messaggi fuori contesto, che sono in assoluto quelli che amo, buonasera, volevo un suo giudizio su una telefonata che mi è pervenuta dalla banca e mi consigliava insistentemente di vendere dei bot a scadenza 30 giugno 2012 per 100.000 euro, dicendomi che stavo perdendo sul capitale 400 euro. Ho preso tempo, ma sono rimasto un attimo sconcertato. Vostro consiglio, grazie e complimenti per il programma. Questo credo non sia fuori contesto, credo sia solo fuori tempo, ma stia lì, le do del lei perché non, è roba di Barisoni, stia lì che arriva Barisoni, è sicuro. Sicuramente qualcosa di buono gli dico. Oppure si rivolga alla Rosciani. Grazie. Comunque ha ragione, io venderei in assoluto. Cioè, se vuoi un consiglio serio, vendi tutto. Cioè, monetizza, si dice così? Monetizza, cartolarizza. Grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, Margherita Ina, Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Manuel, parlava di vita notturna. Quella di domani, invece, è la storia di Maria Isabel e racconta di Desaparecidos. Il carcere è un forte imponente. L'acqua ci arrivava praticamente alle ginocchia. Centinaia di persone in fila, come noi, con scatole, valigie e quant'altro, a reggerle nel miglior modo possibile per non farle bagnare. Dopo ore entriamo, camminiamo per dei lunghi corridoi, fino ad una stanza dove i carcerati stanno dietro ai vetri. Una volta arrivata da lui, al posto del ragazzone rubicondo che conoscevo, mi trovai un uomo magrissimo, quasi senza denti, praticamente calvo. E lì non sono riuscito a fare altro che scoppiare a piangere.